È lunedì, la sveglia suona, apro gli occhi, sono in coma, il mondo sta scappando via, lontano dal weekend, e io sto bene insieme a te. È martedì e sono in coda dal casello fino a Roma, non sembra di poter viaggiare a gran velocità. Il tempo passa ed io sono qua. Mercoledì stai in mezzo al mare, sono stanco di remare, giro intorno a questa boia, aspetto giovedì. Sembra non finisca mai questa lunga settimana, forse appena incominciata, ma son già stanco. È giovedì, che male al capo, io rimpiango d'esser nato. Dimmi amore cosa ho fatto per soffrir così. E intanto arriva venerdì, è venerdì, gridiamo in coro, noi forzati del lavoro, presto scendi in fretta a fare questa insieme a me, e io sto bene insieme a te. Che giorno è? La sveglia trilla con il tritolo, la sveglia brilla, il mondo si è fermato qui nel magico weekend, e io sto bene insieme a te, e io sto bene insieme a te. È lunedì, la sveglia suona, apro gli occhi, sono in coma. È lunedì, la sveglia suona, apro gli occhi, sono in coma. È lunedì, la sveglia suona.